diretta per quella redazionale che avevamo deciso di fare, che facciamo qui insieme a alcuni compagni anarchici di quel periodo, appunto. E non siamo giovanissimi quelli che siamo qui in studio oggi, ma è comprensibile perché, diciamo, eravamo testimoni reali di quel periodo, e alcuni, appunto, come i compagni anarchici qui presenti, anche come dire, hanno subito i colpi della repressione in quel periodo. I compagni facevano parte del circolo 22 marzo, scusate, di quegli anni, che fu messo al centro artatamente di quella vicenda. Ora, il punto è questo: noi normalmente, chi ascolta questa radio avrà sentito, ogni anno intorno al 12 dicembre, con gli stessi compagni, 2 anni fa e anche l'altro anno abbiamo ricordato, perché è una data che va ricordata, una strage che va ricordata, un periodo storico che va ricollocato nel suo contesto e nello scontro tra movimento e Stato. E oggi però ci torniamo in un periodo strano, siamo i primi di aprile, perché appunto sono successe alcune cose abbastanza strane in quest'ultimo periodo. È uscito questo film di Marco Tullio Giordana, che ricalca, anche se dice liberamente, il libro di Cucchiarelli sui segreti di Piazza Fontana, libro e film, anche se non totalmente interindipendenti, cioè relativamente indipendenti l'uno dall'altro, falsificano gran parte di quello che poi si era ormai consolidato come verità storica. La strage di Stato è un testo che ancora oggi fa riferimento e chiarisce in gran parte la totalità di quello che è successo in quel periodo. Contestualizza bene i fatti, individua le responsabilità. Poi ci sono pure tanti altri buoni libri, come quello di Boatti, con tanti libri usciti che hanno chiarito le cose. Ma nonostante ciò, e da qui partiremo, nonostante ciò, e in certi periodi storici particolari, come quello che viviamo attualmente, torna la voglia del revisionismo storico, di revisionare, quindi ribaltare completamente alcuni episodi importanti, alcuni episodi di svolta storica, comunque di grossa pregnanza storica in questo paese, per far passare una serie di discorsi. Ricordiamo il discorso delle foibe, la giornata della memoria, azzerare completamente i crimini fatti per esempio dagli eserciti italiani in Libia, in Etiopia, nei Balcani, per far passare l'unità nazionale in quel caso, in questo caso per dare una svolta repressiva in questi giorni, in questi anni, al rapporto appunto Stato-movimenti di lotta. L'abbiamo visto con gli arresti alla Notav, l'abbiamo visto con gli arresti del 15 ottobre, lo vediamo continuamente. Per un sasso tirato contro la polizia si prendono 4 anni, probabilmente raramente successo nei paesi cosiddetti democratici. E allora partiremo proprio da questo. Non parleremo tanto del film, non parleremo tanto del libro di Cucchiarelli, parleremo però, prenderemo spunto di questi per vedere appunto le falsificazioni storiche e l'uso che di queste falsificazioni storiche si fanno nel contesto attuale. E da qui vogliamo partire. Allora, perché, ecco la domanda che rivolgo ai compagni, perché in questo periodo, inizio del 2012, da 2 anni abbiamo una crisi devastante, non solo in Italia, un po' in tutto il mondo capitalistico e in particolare in quello occidentale, una crisi da cui pare che non se ne esca, o comunque siamo nel pieno, ovviamente le manovre del governo sono quanto mai penalizzanti per tutta l'area proletaria, popolare, eccetera, non si accettano i governi, lo Stato non accetta movimenti che mettano in discussione le scelte del governo, e quindi la repressione si fa quanto mai feroce. Ultimamente c'è stato un discorso del capo della polizia Manganelli che ventilava la necessità, quindi mandava un appello abbastanza preciso al Parlamento perché legiferasse nuove forme di associazione a delinquere per poter colpire persone non altrimenti colpibili, quindi l'individuazione di altre forme compartecipative per appunto colpire chi dissente con la lotta, con l'azione diretta dai diktat del governo. E proprio da qui vogliamo partire. E in questi clima, in questo periodo, si collocano i maggiori tentativi di revisionare alcuni passaggi storici, in questo caso come la bomba di Piazza Fontana. Cerchiamo di collocare questo periodo all'interno di una dinamica, come hai fatto te, generale. Sta cambiando il paradigma dello sfruttamento, sta cambiando il modello attraverso cui si sfruttano. In Italia ogni volta che questo si è verificato con le migrazioni interne degli anni 60 e la nascita della figura dell'operaio massa, c'è stato un momento di rottura con il primo accenno di precarizzazione, la rottura di alcuni equilibri che anche comunque identitari che la fabbrica dava, quello che diciamo così i compagni di una certa età chiamavano il passaggio dall'operaio massa all'operaio sociale, si è determinato un altro momento di rottura. Oggi siamo nella fine del post-fordismo, cioè quello che residuava da un modello di produzione basato sulla semplificazione dei movimenti, quello era il taylorismo, la catena di montaggio associata al fordismo, ma soprattutto un reddito decente per i lavoratori che gli consentisse anche di fruire di parte dei beni che loro producevano, che era appunto la componente di questo modello di produzione fordista che è rimasta nella nostra società, si è persa. Si è persa perché oggi con la precarietà, oggi con l'assoluta insicurezza, oggi con i salari che sono al di sotto di un livello di decenza, con ricatti continui dati dall'abitazione, dal costo delle cure sanitarie, è chiaro che stiamo di fronte a quello che le persone, diciamo così, che si studiano questi fenomeni chiamano un cambiamento di paradigma. Si modifica il modello di sfruttamento. La modifica di questo modello di sfruttamento comporta, come ha storicamente comportato in tutte le situazioni, lo sta comportando a livello internazionale per quanto riguarda l'Europa, comporta la nascita di movimenti di lotta e ribellione che in Italia sono stati ammazzati dal parlamentarismo, perché il fatto che per anni anche pezzi di movimento si rivolgessero al Parlamento pensando di trovare una mediazione ha determinato di fatto la scomparsa della capacità di opposizione in Italia. Noi stessi che da questa radio testimoniamo da decenni l'opposizione, evidentemente oggi si rappresenta collettivamente alcuni pezzi di realtà sociale, ma non si riesce a essere incisivi nella modifica dei rapporti di forza. Per questo motivo però lo Stato, che sa bene che i compagni hanno queste capacità e l'hanno dimostrato, perché la lotta in Valsusa è una di quelle lotte contro le nocività ambientali, che è una di quelle lotte che può portare a casa il risultato, come l'hanno portato le lotte contro il nucleare, la lotta contro l'acne di Cengio, la lotta contro il deposito di scorie nucleari a Scanzano Ionico. Sono le lotte dove il movimento è riuscito ad affermare le proprie ragioni. Così hanno paura che questo nasca anche dal lato sociale, stanno riproponendo una campagna di criminalizzazione del movimento anarchico. Probabilmente all'interno di chi si oppone, l'unico che non ha mai avuto compromessi con nessuno, l'unico che è rimasto fedele a un certo tipo di principi e metodologie d'azione. E così come è successo con Piazza Fontana, ci si riprova da un lato riproponendo meccanismi di criminalizzazione, l'abbiamo visto con Manganelli, che per invocare le leggi antianarchiche, perché nel dipingere e nel richiedere al Parlamento nuove figure di associazione sovversiva, ha parlato esplicitamente degli anarchici che non potevano essere perseguiti con l'attuale legislazione, e per motivarlo ha detto che gli anarchici stavano cercando il morto. Peccato che due giorni dopo il morto l'abbia cercato la polizia a Baita Clarea in Valsusa, e entrando dichiarando che c'era un cantiere, senza dimenticandosi di staccare la corrente da un traliccio dell'alta tensione, come se in un cantiere potessero esserci tralicci alimentari. Se fosse successo un operaio sarebbe stato un incidente sul lavoro, dove probabilmente il titolare della ditta che faceva i lavori sarebbe stato arrestato. Siccome è successo a un compagno, era una cosa normale, anzi era colpa sua. All'interno di questo contesto, che è un contesto repressivo e mediatico, si inserisce un percorso culturale di riscrittura della storia nella migliore tradizione orwelliana, a cui l'Italia ci ha, come ricordava Salvatore prima, ormai abituato. E in questo senso uno dei più chiari crimini commessi dallo Stato italiano, quello di Piazza Fontana, piazza che nella memoria collettiva è la strage di Stato, quella del 12 dicembre del 69 nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, viene riscritto. Il supporto teorico di questo revisionismo gliel'ha dato un libraccio di Dalcerto Cucchiarelli, un giornalista dell'Ansa, assurto agli onori della cronaca perché Andreotti gli ha aperto il proprio archivio segreto. evidentemente, siccome prima era stato mandato a collaborare con alcuni compagni, con intellettuali come Giannulli, che si sono occupati di Piazza Fontana e che hanno scoperto tra l'altro il deposito segreto dei servizi segreti dove c'erano tutte le schede, più facile sia stato mandato a controllarlo che non aiutarlo, visto che dubito che sia stato folgorato sulla via di Damasco Andreotti dall'amicizia Cucchiarelli, tanto da fargli vedere il proprio archivio. La donna di Cucchiarelli è quella che ha scritto il libro sull'Anello, il servizio segreto gestito da Andreotti. Evidentemente è una manovra di riscrittura che risiede nel passato e in personaggi che un loro peso lo hanno. All'interno di questa manovra di scrittura, il libro è un libro improbabile, poi affronteremo magari alcuni degli argomenti trattati male da questo libro, è un libro che non ha avuto un grosso successo editoriale. Su questo si è innestato il discorso del film. Giordano è un regista di grido, di successo. C'è un tentativo di far diventare di massa alcune verità che verità non sono, ma che servono a raccontare la storia in un certo modo, in un paese dove, proprio su Piazza Fontana, la maggior parte delle persone che ci abitano non era nata quando Piazza Fontana è successa, dove chi ha memoria di quello che è successo ha una memoria annacquata, perché comunque non viene ricordato cosa è successo. Noi cerchiamo di farlo ogni anno proprio a monito, proprio perché queste cose non si verifichino più. Ma proprio per questo motivo è importante, quando ci sono questi episodi di riscrittura della storia, riintervenire, ricordare. Prossimamente cercheremo di costruire momenti di confronto anche dal punto di vista storico con i compagni, a cui adesso lascio la parola, proprio perché la memoria di quegli anni raccontata dai protagonisti non sia poi stravolta da questi mestatori e propalatori di falsità ad uso dei padroni di oggi, che usano queste falsità per riproporre la solita equazione, per mettere fuori, per cercare di criminalizzare qualsiasi ambito di lotta per la liberazione e l'emancipazione sociale. Sentiamo Roberto Gargamelli, vecchio nel senso della militanza, intendevo, non dell'età, poi siamo pressoché coetanei. A te Roberto, vai. Ecco, vi voglio fare un breve resoconto di quello che era il nostro gruppo 22 marzo all'epoca del 69. Era un gruppo nato da pochissimo, ma che come militanti noi già svolgevamo da tempo, da circa un anno e mezzo, due, del lavoro politico all'interno di tutti i settori, partendo dal movimento studentesco in tutti i settori delle lotte in cui all'epoca erano praticamente giornalieri, le dimostrazioni di piazza, i tentativi di blocco di qualsiasi tipo, per portare avanti lotte operaie, e noi eravamo dentro questo meccanismo, dentro queste lotte, e facevamo il più possibile quello. Ci eravamo avvicinati al movimento anarchico da poco, da circa 6-8 mesi, e così eravamo entrati in contatto con i compagni di Via Baccina dell'epoca, del Bagonin di Via Baccina. E lì avevamo cominciato a comprendere, a leggere i testi, ad apprezzare enormemente, insomma, ci affascinavano, erano poi talmente chiare, limpide e assolutamente adatte al momento, le idee anarchiche. Insomma, era una posizione nostra che acquisimmo mano a mano, facemmo quel percorso che ci portò poi ad abbracciarla appieno, quindi ci sentivamo veramente coinvolti in un progetto che era quello dell'ideale anarchico, assolutamente pulizia totale per quanto riguarda l'idea, per quanto riguarda le lotte che tentavamo di fomentare, anche perché no, perché eravamo quelli che scrivevano volantini, si mettevano in piazza insieme a tanti compagni, insomma cercavamo di fare un lavoro capillare e in tutti i sensi. Ritornando al nostro gruppo, fu quello che poi venne preso di mira poi per creare quella strage di cui abbiamo parlato fino adesso e cui si parla da 43 anni senza ancora avere di fatto una risposta se vogliamo, da una Repubblica Democratica, come si dichiara, precisa e, e assolutamente definitiva. La parola definitiva, cercano di metterla la fine, la definizione di quella strage, cercano in ogni modo di cambiarla, di travisarla, utilizzando dei personaggi come Cucchiarelli, che scrivono dei libri assolutamente fasulli su tutta la storia. E il progetto che c'è dietro è abbastanza chiaro, perché cercano di rifarsi le istituzioni e parte dei partiti politici dell'epoca, di rifarsi una verginità per quanto riguarda quello che ha significato ed è stata di fatto una strage di Piazza Fontana, la strage di Stato, non a caso chiamata finora, e cercano in tutti i modi di modificare l'immagine che c'è stata fino ad oggi. Nell'immaginario collettivo oramai la strage di Piazza Fontana è una strage di Stato e punto. Sappiamo chi sono i responsabili, sappiamo chi ha brigato per portarla avanti, sappiamo che noi come gruppo 22 marzo dell'epoca, Pietro Valpreda, io, Enrico Di Cola, Emilio Borghese e tanti altri compagni del nostro gruppo fummo utilizzati assolutamente in un progetto scritto a tavolino, ricordiamocelo bene, al fine veramente di sbatterci in prima pagina, come qualcuno ha visto forse quel film famoso Sbatti il mostro in prima pagina. Ecco, noi realmente facemmo quel tipo di fine, insomma. Dopo 3 anni di carcere riuscimmo ad uscire grazie a quello che è successo poi in tutte le piazze d'Italia, l'enorme massa di gente, di persone, di compagni, a tutti i livelli, alla fine intellettuali di tutti i livelli, alla fine riuscirono a creare un insieme di un contesto talmente vasto di richieste ad alta voce di metterci in libertà, di farla finita questa farsa che era diventata veramente all'epoca la nostra carcerazione, il nostro essere accusati di quella strage. E quindi quello che poi giungemmo finalmente riuscimmo ad uscire dalla galera, proprio grazie a questo insieme. Voglio ricordare anche, grazie ai tanti morti dei compagni in piazza, nelle varie manifestazioni, ogni anno ce n'era una, il 12 dicembre di ogni anno è stata purtroppo punteggiata da morti di compagni uccisi in piazza dalla polizia, proprio perché chiedevano a gran voce che venisse fatta finalmente, venisse detta finalmente ufficialmente la verità su quella strage. Vorrei passare la parola adesso a Enrico Di Cola, che è un altro dei compagni dell'epoca inquisiti. Lui riuscì, grazie all'aiuto di altri compagni, a non essere incarcerato in quegli anni. E riuscì a rimanerne fuori, nonostante per questo abbia patito abbastanza anche lui. A te, Enrico. Io credo che la cosa che vada messa più in evidenza rispetto al film di Giordana, al libro di Cucchiarelli, è un doppio filo, un filo di cose che ci sono, ma e soprattutto le cose che non ci sono. Vorrei partire intanto da quello che non c'è, quello che porta a vedere una sorta di amicizia tra Pino Pinelli e Calabresi. Pino Pinelli e Calabresi non erano amici e non potevano essere amici. Pino Pinelli, come Pietro Valpreda, fin dalle bombe del 25 aprile erano perseguitati, seguiti, spiati, controllati, il telefono sotto controllo e continuamente fermati. quell'amicizia è una farsa alla memoria dei compagni. Nel film, che sembra genericamente neutro, non si vede la neutralità. Io vedo un collegamento netto, anche se nel sottofondo, di una serie di briciolette lasciate dalla trama scritta da Cucchiarelli. Esiste una miccia, quella che viene considerata fantasma, che in realtà non esiste agli atti, però serve per arrivare alla fine a dimostrare che c'erano due bombe. Vediamo una conversazione di Calabresi con il giornalista Nozza, e lì ritirano fuori la versione che Pietro Valpreda partì da Milano per venire a Roma e tornare indietro, il famoso viaggio che è dimostrato che non poteva essere avvenuto con quella macchina in quelle condizioni. Abbiamo un'immagine di Piazza Fontana nel momento in cui arriva il tassì del Rolandi, praticamente deserta. Anche questo è un particolare che sappiamo perfettamente dagli atti, che c'era un traffico intenso, però serve a dimostrare che prendere il taxi era una cosa logica, mentre chiunque sapesse, avesse con sé una bomba ad orologeria con un timer estremamente rudimentale, saprebbe che ogni minuto perso poteva scoppiare in qualsiasi posto. Abbiamo una manipolazione abbastanza evidente anche nei manifesti. Vediamo due manifesti che tra l'altro sono quelli del Maggio Francese, con delle A, vistose A messe lì. Nelle foto originali non esistono le A, quindi si cerca, e questo di nuovo è una cosa che viene presa in regalo da Cucchiarelli per dimostrare che gli anarchici avevano firmato quelle bombe. Abbiamo una versione strabiliante in cui dice che l'ultima bomba è esplosa a Roma e quindi giustifica il viaggio di Valpreda nella capitale. Tutto questo avviene dopo che Valpreda viene incastrato dalla testimonianza di Rolandi, su cui poi potremmo anche parlare volendo, ma avviene dopo. Giorni dopo, quindi è tutto falso. Valpreda è stato rapito da Milano per scippare il processo al magistrato milanese. Abbiamo un altro piccolo elemento fa vedere Pinelli, che racconta che aveva portato nel viaggio dell'agosto 69 a Roma delle perline e vetri. Questo è tutto quanto Pinelli portò, una lega speciale per le lampade e dei vetri, ma non le perline. Le perline è un'altra invenzione di Cucchiarelli perché doveva legare di nuovo al gruppo a Valpreda, diciamo, una bustina vuota trovata dentro la famosa borsa di Milano. Abbiamo un'altra frase importante, che è quella in cui l'infame Anna Bolena, Enrico Rovelli, cioè che collaborava sia per l'ufficio affari riservati, referente russomano, che è una delle fonti principali di Cucchiarelli, sia per l'ufficio politico, quindi era il suo referente in quel caso era Calabresi, di cui parlano di Pinelli che scrive una lettera per dire che non si fidava di Valpreda. Quella lettera esiste, però non è sulla pericolosità di Valpreda, si trattava di altre cose che possiamo tranquillamente raccontare. Quello che vediamo nel film di nuovo è il tentativo di tirare Calabresi fuori dalla stanza dove è stato assassinato Pinelli. Nel film si vede Calabresi che esce da in fondo al corridoio, e questo giustificherebbe che Lello Valitutti non ha potuto vedere che usciva dalla stanza. È un falso, perché se fosse vero Ricordiamo che, appunto, perché pensiamo che chi ci ascolta non sia così addentro magari come voi e in parte anche noi, no? Che Lello Valitutti era in questura nel momento in cui si trovava anche Pino Pinelli, quindi l'unico, diciamo, testimone. L'unico testimone che ha dichiarato varie volte, quindi no, esatto, quindi questo è un punto importante di tutta la questione poi della morte di Pinelli, no? Stavo dicendo che questo serve di nuovo per dimostrare anche, se volete, anche la falsità delle testimonianze di un compagno che ha potuto sentire quello che avveniva, e poi ce lo racconterà lui stesso comunque. Però è un altro elemento importante. Pino e Pietro, Pino Pinelli e Pietro Valpreda, è la stessa cosa che dicono, che soprattutto mentre Pietro ovviamente risulta un utile idiota, di Pinelli che viene quasi santificato in maniera obbrobriosa, però, perché la sua figura ne esce malmessa assai, però non è vero assolutamente che Pino uscì dall'inchiesta in quel momento. Ci sono incartamenti e documenti dei servizi segreti e degli affari riservati ancora nel 72, nel 75 e nel 77, in cui cercano ancora di dimostrare che Pino Pinelli aveva messo le bombe sui treni. Quindi tutto quanto questo lo vediamo, cioè lo immaginiamo in questo filo di merda che viene inserito nel film, però no, che soltanto le persone che hanno vissuto quell'epoca possono capire, mentre i giovani non capiranno nulla di quello che è veramente avvenuto. Voglio fare un appunto per quanto riguarda, appunto, si parlava delle bombe sui treni che furono inizialmente, fin da subito, accollate, sia quelle sui treni e quelle alla stazione centrale e alla fiera campionaria di Milano del 69, che furono da subito, grazie a Calabresi, e voglio ricordarlo perché è sempre Calabresi quello che ricorre, e tanto per fare un puntino sulla figura così amorevolmente presentata da Giordana nel film. Il Calabresi è quello che mise in galera i compagni anarchici fin da subito, puntando il dito contro questi e tenendoli in galera quasi un anno e mezzo, per quelle bombe che poi alla fine, e si sapeva però dall'inizio, secondo noi, come lo sapevano benissimo sia la questura di Milano sia i servizi, che erano state messe, poi appurato, poi verificate, poi condannati anche per questo, da Fred Aventura e quindi dal gruppo Veneto di Ordine Nuovo. E un'altra cosa per quanto riguarda le indagini svolte su di noi, su quello che era il 22 marzo, su quello che avevamo, tanto per fare un puntino, voglio ricordare per dare un'idea, per fare chiarezza su come venivano condotte quelle indagini all'epoca sul nostro gruppo, e il motivo per cui quelle indagini in ogni caso sarebbero soltanto risultate chiaramente contrarie alla nostra tesi, alla nostra innocenza, alla nostra assoluta estraneità ai fatti. E una delle tante cose, circa 20 anni fa, 25 anni fa, sì, Pietro Valpreda mi disse, eravamo fuori da un pezzo, che avevano liberato, poteva andare a ritirare la sua 500. Vi ricordate la 500 famosa del viaggio a Milano? Una volta il 12 dicembre mattina Pietro arriva a Milano. E il 13, secondo la ricostruzione falsa del film in cui parla Nozza, del viaggio di ritorno a Roma e quindi ripartenza da Roma il 13 e il 14. Quella 500, si disse in tutti, venne strombazzato dappertutto che poteva tranquillamente, dissero che era stata addirittura sezionata per vedere se riusciva a fare quel percorso in tre giorni avanti e indietro, ma Milano, una 500 vecchia all'epoca, già all'epoca di 10 anni, insomma, dissero che venne sezionata in tutto. E nel 20 anni fa la ridiedero a Pietro, la liberarono, era sequestrata da circa 20 anni, quindi e andai io a ritirarla a Roma, perché io stavo a Roma, Pietro a Milano, diceva vacci tu, valla a prendere, e sono andato a prendere sta 500, a ritirarla con delega di Pietro. Sta 500 era come era stata lasciata, assolutamente piena di polvere, quello che c'era dall'inizio, da 20 anni circa, in tonza, cioè non era stata toccata. Cioè questa è la falsità delle indagini, questo per chiarire come sono state fatte le indagini su di noi. Non serviva farle le indagini su di noi, perché dovevamo essere i colpevoli e basta. Non c'erano, tutte le indagini erano volte soltanto a trovare delle persone, dei personaggi, ma di qualsiasi origine, da qualsiasi buco venissero fuori, che puntavano il dito contro di noi per qualche motivo, anche semplici invenzioni. Dichiarazione di Guido Allegra pochi minuti dopo la morte di Pinelli in televisione, pochi minuti dopo la strage, poi reiterate dopo la morte di Pinelli, c'è già una velina fatta, c'è già una tesi precostituita, prima ancora che scoppiasse la bomba, si capisce, perché era già talmente articolata che non poteva essere frutto di indagini che il tempo non gli avrebbe concesso, quindi c'era già quando Guida va in televisione e dice che secondo lui sono stati gli anarchici, spiegando come chiaramente sì, disse subito che Pinelli si era trovato perso, ha detto viva l'anarchia e si è buttato una finestra, insomma ci rendiamo conto a che livelli era la costruzione. Ripasso di... No, in effetti c'è sta una cosa che viene quasi sempre dimenticata, che D'Amato dell'ufficio affari riservati nel 68 riuscì a riunire per la prima volta le polizie europee, sì. E in quell'incontro lui scrisse un documento che presentò, in cui parlava di già del pericolo degli anarchici, terrorismo anarchico. Sì, poi ma su tutto il discorso, infatti se ne è accennato un momento fa da Enrico, il fatto del passaggio da Milano a Roma del processo, insomma la rapina del processo da Milano, dove c'era stata una strage con 17 morti, passato immediatamente a Roma. Il motivo essenzialmente è uno, perché a Milano c'era un giudice, Paolucci, che non era d'accordo con la tesi iniziale degli anarchici a tutti i costi, come colpevole. Diciamo non era integrato in quel progetto che vedeva Guida Allegra Calabrese. Paolillo, scusate. Poteva essere un rischio, può darsi quindi, sì. No, ma poteva essere un rischio, non era organico a quel progetto. Sì, infatti era talmente rischioso, sia per quanto riguarda appunto l'omicidio di Pinelli, sia per quanto riguarda tutto l'andamento del processo dell'accusa contro di noi, quindi della discarica della strage sulle nostre spalle. E quindi fu immediatamente portata a Roma, non a caso portata a Roma, perché a Roma c'era un giudice ben più compiacente, c'era Vittorio Corzio, c'era quello che poi ci venne a interrogare a me e a Pietro e a tutti gli altri in galera, è quello che senza dire né a né bai mi mandò un papier, io stavo in cella di isolamento all'epoca e ci sono stato per 2 mesi, e mi arrivò sto papier di circa 50 pagine con l'accusa di strage strage tentata e quant'altro. E Vittorio Corzio era quella persona che un solo interrogatorio mi ha fatto a me, e mi ha soltanto contestato i fatti, mi ha chiesto che cosa, che non ha cercato neanche di questo è una cosa che mi ha sempre lasciato, chiaramente col senno del poi si capisce perché. Non mi ha chiesto neanche, non mi ha contestato fatti, cose, assolutamente niente, ma solo che ha detto confermi i tuoi verbali fatti in questura. Dico sì, come ti dichiari, sono anarchico individuale, libertario, dissi. E, finito lì, un interrogatorio quasi assolutamente asettico. Con una strage, in ballo, con tutto quello che era successo, insomma, io indagato per quella strage, mi fa un interrogatorio da burletta, insomma. Ecco, passo. La cosa, diciamo che di carne al fuoco ce n'è veramente tantissima, non riusciremo ad essere sicuramente esaurienti in questo spazio, però una cosa che è stata citata sulla quale volevo tornare, cioè l'operazione del film è fondamentalmente quella di un political correct, no? Cioè di cercare di stare dalla parte della ragione, fra virgolette, per quello che intendeva Brett nella sua famosa poesia. E quindi fare poi questo minestrone assolutamente poi del resto anche difficile da comprendere per chi appunto non ha gli strumenti oggi. Ci sono gli strumenti, c'è una massa enorme di informazioni per chi le vuole cercare, però magari è complicato per qualcuno farlo. Però diciamo l'operazione è proprio anche questa canonizzazione di calabresi, che del resto è stata cominciata già da Napolitano, cioè perché su questo piano di finte riconciliazioni certo non si è fatto mai mancare niente, è cominciata anni fa col famoso incontro fra le vedove Pinelli e Calabresi, no? E quindi cercare appunto di avvalorare questa tesi di un calabresi buono, comprensivo, assolutamente al di fuori di un tipo di, diciamo, di comportamento poliziesco che poi invece era quello predominante, cioè mi risultano esempi di eccezioni e lo sappiamo benissimo noi anche sulla nostra pelle in quell'ambito. Calabresi che viene presentato in tutto il film appunto come una persona tormentata, anche se diciamo suo tormento con la faccia poco espressiva di Mastandrea non è che esca bene, però diciamo anche con questi quadretti familiari, no? Molto fastidiosi, assolutamente poi incomprensibili perché non si capisce quali ne siano le fonti. Un Calabresi che fa questo scambio di regali con Pinelli, che appunto appaiono due persone che si rispettano, no? Come piace dire a molti, no? Sei mio nemico però ti rispetto, ma quale rispetto? Te rappresenti un potere che io non rispetto e soprattutto ne sei uno strumento fedele. E due aspetti, uno a parte quello appunto su cui torneremo con la testimonianza di Valitutti che sentiremo per telefono, su questo appunto tentativo che viene reiterato, no, di assolvere Calabresi dalla morte di Pinelli. E se ricordiamo, noi sicuramente lo ricordiamo, lo ricordiamo anche a chi magari non lo sa, che una delle tesi appunto del fatto che Pinelli si fosse suicidato, in uno di questi fantascientifici racconti c'era appunto il fatto che compagno Pinelli, gridando è la fine dell'anarchia, la notizia, il famoso saltafosso come viene descritto nel film, cioè la notizia che viene data della falsa confessione di Valpreda, gridando è la fine dell'anarchia, se buttasse poi dalla finestra. Allora nel film viene messa questa frase in maniera subdola, anche se a questa non segue poi il volo dalla finestra, questo nel film non viene mostrato, viene mostrato appunto Pinelli che cade davanti a questo giornalista dell'Unità che poi fornirà dei riscontri che inchioderanno le falsità poliziesche e giudiziarie. E appunto gli viene detta questa frase, guarda, viene proprio portato un finto verbale, Valpreda ha confessato e Pinelli dice nel film ma sarebbe la fine dell'anarchia. È veramente disgustoso l'uso di questa frase completamente inventata, che però viene rimessa in bocca a Pino Pinelli, quindi avvalorando in un certo senso, no? Quindi confondendo le acque. E poi alla fine la scena da telefilm americano in cui si vede Favino, no? Che impersona Pino Pinelli, che quasi sorride a un Calabresi, no? Quasi a questa conciliazione, come a dire vabbè io lo so che tu non c'entri e che tu eri buono, assolutamente gratuita e fastidiosa. E quindi poi come questa predestinazione, no, di Calabresi, che già dall'inizio del film si vede, cioè poi Calabresi verrà ucciso come è noto, la scena c'è nel film, cioè si vede il corpo di Calabresi eccetera, e quindi questa cosa che li accomuna come vittime alla fine poi forse di una stessa mano, no? Cioè veramente una cosa, ed è molto brutto fra l'altro, al di là di qualsiasi proprio giudizio, proprio da un punto di vista etico, se questa parola per noi ha un senso, per loro evidentemente nessuno di buttare, cioè, fango e falsità su due compagni che non ci sono più, e quindi Valpreda e Pinelli, e quindi non possono dire la loro. Per fortuna, insomma, ci sono altri compagni che parlano per conto loro, però insomma questo è veramente orribile. Volevo dire due parole, poi ti ripasso la parola, sul, perché come dire, a vantaggio, Roberto l'ha un po' ricordato, dei giovani di oggi, no? quel contesto di allora, prima abbiamo parlato del contesto di oggi in cui nasce questo ultrarevisionismo su alcuni fatti importanti. Allora, in realtà, anche al di là delle falsificazioni che qui sono state messe in luce e che continueremo a mettere in luce, fatte da film e il libro Cucchiarelli e il film di Giordana, c'è anche però che isolare semplicemente la bomba di Piazza Fontana da tutto il contesto anche repressivo di prima del 69 e di dopo il 69, anche quello è uno sbaglio. Non è che la bomba piove al di là di chi l'abbiamo messa, e il libro La strage di Stato chiarisce chi l'ha messa e perché. Comunque non è che cade come un fulmine a ciel sereno, non è uno tsunami in un mare calmo. C'era stata una, cioè, quando riprende nel corso degli anni 60 il movimento operaio, studentesco, proletario, perché non ci voleva stare a quel tipo di boom economico, di società basata sui consumi, no? Lavora, consuma e crepa, e quindi cominciano la ribellione, subito parte la repressione a tutti i livelli, non è uno scherzo, gli anni 60 sono di feroce repressione, scioglimento di formazioni, arresti di compagni, eccetera. Con l'autunno caldo, ci sarà quel che è famoso, appunto, la grande iniziativa, presa di parola e di lotta e di azione diretta della classe operaia in Italia, in particolare l'incontro con il movimento studentesco dell'anno prima. Al 69 seguiranno circa 9.000 arresti, non è uno scherzo, 9.000 arresti in un paese, e non è che si erano fatte, voglio dire, non per fatti specifici, semplicemente per atti di ribellione, blocchi stradali, occupazione di fabbriche, quello che è consustanziale a una lotta di classe. Quindi 9.000 arresti sono spaventosi, e poi la repressione continuerà, quindi è bene avere il quadro, e quindi si capisce bene perché la bomba, al pari degli arresti, delle perquisizioni, dei licenziamenti politici, di tutto quello che avviene in quel periodo, serviva semplicemente a un motivo che è detto nelle prime righe della strage di Stato, addirittura nella prefazione: servivano dei morti per cambiare il quadro politico del paese, per ributtare indietro quel movimento e aprire la strada al centrosinistra. Poi quello è quello che funziona, al nuovo centrosinistra, quello che copterà anche il Partito Comunista. Un'ultima che ricordo volevo fare: i buoni che in quel film vengono raccontati saranno quelli che poi a metà degli anni 60, per esempio, metteranno in piedi le dinamiche più repressive e anche più omicide. Per esempio, la legge Reale viene fatta nel 1975, quando c'è in corso il terzo governo Moro, con tutta la parte buona che il film descrive. I buoni faranno il buono del film, i buoni del film faranno le leggi più repressive, e la legge Reale a tutt'oggi è la legge che ha fatto più morti, circa alcune centinaia, 400 credo morti, lasciati sulle strade italiane bagnate di sangue in omaggio appunto alla difesa dell'ordine produttivo. Io non so se vogliamo mandare un attimo di musica e poi magari proviamo a collegarci con Pasquale. Thank you. E allora è 12 e 12, mezzogiorno e 12, siamo in collegamento con Lello Valitutti, che salutiamo, un abbraccio da parte qui della redazione. Ciao Lello. Ciao, saluto voi per prima e poi i compagni e le compagne tutte. Prima di dirvi alcune cose voglio fare alcune premesse. La prima è che io, come tutti i compagni anarchici, non abbiamo assolutamente niente di personale contro il famigerato commissario Calabresi. Nella natura di essere anarchici, noi non siamo miglioristi, nel senso, noi non ci possiamo arrabbiare con un commissario di polizia perché vogliamo migliorare la polizia, quindi quello è il personaggio cattivo che non ha fatto bene il suo dovere di poliziotto. Proprio queste cose non ci toccano, non ci interessano. Per noi non esistono poliziotti che fanno bene il loro lavoro e poliziotti che lo fanno male. Secondo, tantomeno possiamo avere qualcosa contro la famiglia di Calabresi, per amor di Dio. Non li conosco, non li ho mai conosciuti, ma non posso avere nessun motivo di rancore contro di loro. E neanche me la prendo se cercano di difendere la memoria del padre. Mi sembra anzi una cosa naturale, no? Detto questo, io non posso mentire per fare contento qualcuno, non posso non dire le cose come sono perché qualcuno ci può restare male, non sarebbe giusto, in nessun modo. Noi compagni, vedete, siamo vecchi ormai, no? Quindi dovete capire che noi siamo passati attraverso varie fasi. Prima, i giorni della strage, i giorni immediatamente seguenti, siamo stati demonizzati, abbiamo vissuto giorni da incubo, dove gli anarchici erano i demoni, erano i cattivi, erano i bombaioli. Grazie al cielo non ci siamo fatti intimorire e abbiamo incominciato subito una campagna per la verità. In giorni veramente vi assicuro che eravamo gli unici. In pochissimi e gli unici. Poi è montato un movimento, poi sono stati in tanti, in tantissimi, a dire la verità, ma anche in quei momenti non ci siamo entusiasmati. Abbiamo mantenuto la nostra serenità. Adesso sono 40 anni che manteniamo la nostra serenità e l'abbiamo vista di tutti i colori in questi 40 anni. Voglio solo raccontarvi le ultimissime. Dopo che sono tornato in Italia, che sono stato via, sono stato in esilio per un po' di anni, a un certo punto esce sul Corriere un articolo di D'Ambrosio. D'Ambrosio, per chi non lo sa, è il giudice che ha fatto l'istruttoria formale, quella che doveva essere la più completa, su quello che era avvenuto il 15-16 dicembre alla Questura di Milano, il quale D'Ambrosio mi cita facendomi dire esattamente il contrario di quello che avevo detto. Cioè fa un articolo e dice che il Valitutti aveva detto che Calabresi non era nella stanza. Vabbè, abbiamo risposto, ma io non l'ho presa troppo, dico boh, certo non si era sbagliato, naturalmente. Sicuramente l'aveva fatto di proposito. Dopo, di mano in mano, ci siamo resi conto che non solo per ciò che riguarda i fatti di Piazza Fontana, ma per ciò che riguarda la Resistenza, per ciò che riguarda tanti avvenimenti di anni passati ma ancora recenti, ancora vivi, si stava tentando di riscrivere la storia. Si stava tentando di cambiare la verità e si stava tentando un'opera che veramente ci lascia perplessi. Calabresi stava diventando un santo e di questo siamo rimasti, io almeno, forse gli compagni che erano rimasti in Italia l'hanno vista più progredire nel tempo, io sono rimasto veramente frastornato. Allora, vediamo un attimino i fatti, no? Sui quali poi voi farete tutte le domande, perché è importante creare un contraddittorio, è importante approfittare, fra virgolette, finché i compagni testimoni sono vivi, per cercare di spremere dai compagni tutto quello che si può, no? Per cercare di spiegare. Ogni vostra domanda mi aiuta a spiegare meglio, perché il pericolo quando uno parla di fatti che conosce troppo è che sia troppo sintetico, che non sia sufficientemente chiaro. Quindi io sono a disposizione per qualunque chiarimento. Allora, la mia testimonianza è abbastanza semplice, ma si può anche riassumere volendo. Quando Pinelli veniva interrogato nella stanza di Calabresi, io ero messo nell'ufficio politico della Questura di Milano in una posizione tale che potevo vedere chi passava per il corridoio. C'era una grande apertura, non era né una porta né una finestra, molto più grande, per cui ero lì, messo lì di fronte, nel silenzio assoluto di una notte d'inverno, perché c'era gente solo lì dove interrogavano Pino, e potevo vedere. Io ho detto, primo, che non è passato nessuno in quel pezzo di corridoio. Secondo, che un quarto d'ora circa dell'ora in cui Pinelli è stato buttato dalla finestra, un quarto d'ora prima, ho sentito dei rumori nella stanza vicino, dei rumori che lasciavano supporre una rissa, un trambusto, non meglio definibili, però dei rumori chiari che qualcosa era successo. Questa è la base della mia testimonianza. Allora, quando io ho fatto questa testimonianza, io non capivo cosa volesse dire. Mi ricordo ancora quando l'avvocato insisteva a domandarmi la prima volta: ma non hai visto passare nessuno? Dicevo, no, non ho visto passare nessuno. Cioè, io non sapevo che il commissario Calabresi aveva detto che lui non c'era nella stanza. Perché la chiave è questa: il commissario Calabresi ha detto che non era nella stanza dove stavano interrogando Pinelli. Se lui diceva che era andato in bagno, se lui diceva che era andato in qualunque altra parte, bene, erano fatti suoi. Però lui ha detto che era andato nella stanza del dottor Allegra, che era il capo dell'ufficio politico della questura. La stanza di Allegra era esattamente praticamente di fronte a dove ero io. In questo senso la mia testimonianza diventa importante, perché lui nella stanza di Allegra non c'è andato. Su questo non ci piove, non ci sono dubbi. Se non è andato nella stanza di Allegra, ha mentito. Se ha mentito, perché? Poi, cosa secondo me ancora più importante, dopo che era caduto Pino, lui è venuto immediatamente dove ero io e mi ha detto con la sua bocca: non capisco, vali tutti, come possa essere successo, stavamo parlando tranquillamente. Cioè, lui ha detto che lui stava parlando tranquillamente con Pinelli. Cioè, lui praticamente mi ha detto che era nella stanza di Pinelli. Non in questi termini, non mi ha detto io ero nella stanza di Pinelli, mi ha detto stavamo parlando tranquillamente, non capisco come possa essere successo. Io questo l'ho testimoniato pochi giorni dopo, i primi di gennaio, quando il primo giudice che ha fatto l'istruttoria sommaria mi ha chiesto di riferire quello che era. E questo interrogatorio si può trovare su internet, eh? Chiunque può rintracciarlo. E il giudice mi ha chiesto, cioè c'è solo le mie risposte, ci sono, no? Però a un certo punto io rispondo sì, come se lui fosse nella stanza. Io, perché il giudice mi aveva chiesto, adesso non ricordo esattamente, ma ha parlato come se fosse nella stanza, io dico sì, come se fosse nella stanza. Quindi questi sono i fatti. Io posso essermi distratto? Cioè, dice, è tardi, magari il compagno si distrae. Ora, io vi assicuro, compagni, che non mi sono distratto, perché i rumori avvenuti pochi minuti prima mi avevano completamente allarmato. Ero l'ultimo che era rimasto lì, ero curioso e preoccupato di sapere cosa cavolo mi avessero detto. Però mettiamo per ipotesi che io mi sia distratto, non è vero, eh? Allora, primo mi sono distratto io, poi si è distratto il commissario Calabresi quando mi ha detto che era nella stanza, poi si è distratto il dottor Allegra, perché esiste agli atti un verbale di Allegra in cui dice che Calabresi, quando Pinelli è caduto, lo stava interrogando. Si è distratto anche lui, poi si è distratto anche il brigadiere Sarti, un poliziotto che era lì quella sera, e la vide dove c'era la stanza e dice, ha detto, ma in verità da quella stanza non è uscito nessuno nei minuti precedenti la morte di Pinelli. Si è distratto anche lui. Poi si è distratto il dottor D'Ambrosio, il quale ha dimenticato di chiamarmi a testimoniare quando ha fatto la sua istruttoria. Poi si è distratto l'avvocato difensore di Calabresi, il quale, quando sono andato a deporre al processo Calabresi lotta continua, non mi ha controinterrogato. Ecco, più di così mi sembra che sia impossibile. O crediamo che si sono distratti tutti, oppure dobbiamo prendere atto che il famigerato commissario Finestra, alias Luigi Calabresi, era nella stanza. Ecco, Lello, mi senti? Dimmi. Tu prima hai fatto un invito, no? Fatemi anche delle domande, perché... Certo. Ecco, allora io approfitto di questo tuo invito per chiederti, insomma, le cose che tu hai raccontato adesso sembrano incontrovertibili, appaiono come tali, insomma, io non ho visto passare nessuno. In più, subito dopo i fatti, arriva Calabresi e ti dice, stavamo parlando, quindi implicitamente, certo, quello stavamo, come tu sottolineavi, significa che c'era anche lui. Di fronte a una testimonianza del genere, che tu hai reso sicuramente, poi dopo, che cosa tu pensi sia successo, e in parte l'hai già detto, perché non ti hanno più chiamato o non ti hanno più controinterrogato, per esempio? Come è successo? Che il giudice che mi ha chiamato... Cioè, come sono riusciti a smontare questa testimonianza inoppugnabile, insomma, questo per gli ascoltatori, per chi ci sente. D'Ambrosio, quello che... Allora, il processo in cui ho testimoniato, hanno ricusato il giudice, perché il giudice di quel processo stava arrivando la verità, anche perché quando andammo a fare un sopralluogo in questura con il giudice del processo Calabresi lotta continua, arrivammo lì e nello spazio dal quale io avrei visto, vedevo con comodità il corridoio, c'era la macchina, una grossa macchina che distribuiva caffè, bibite, e il giudice mi ha detto, ma vali tutti, con questa macchina di fronte, lei come ha fatto a vedere? Per fortuna sul pavimento contro il muro era rimasto il segno di dove era la macchina prima. E io ho detto, giudice, guardi che la macchina era lì. E mi ricordo ancora la faccia di questo giudice e l'imbarazzo dei poliziotti. Quindi ecco, si erano sbagliati anche in quello, quando avevano cercato di inficiare la mia testimonianza mettendo un ostacolo fra me e lo spazio che mi permetteva di vedere il corridoio. Mi ho dimenticato di questo, anche lì si erano distratti. Quindi questo giudice stava arrivando, cosa hanno fatto? L'ha ricusato. Ricusando il giudice, il processo non l'hanno più fatto. D'Ambrosio non mi ha chiamato, quando lui non chiama un teste, non chiama l'unico teste che non è un poliziotto, cioè l'unico teste, non perché non sia un poliziotto, perché è l'unico teste che non è un possibile imputato. Lui fa un'inchiesta e chiama tutti i testi che hanno già detto una certa cosa e hanno tutto l'interesse a coprirsi in un altro. L'unico teste che non sia un poliziotto non lo chiama, e a questo punto... Però in tutto questo nessuno mi ha mai accusato di dire falsa testimonianza. E quando l'avvocato di Calabresi ha avuto la possibilità di controinterrogarmi, non l'ha fatto. E questo è l'assurdo. Cioè, la mia testimonianza c'è, la mia testimonianza non viene confutata, si tenta di ignorarla e alla fine si arriva a queste conclusioni. Quindi tu sei il testimone, per quanto riguarda almeno la fine di Pinelli, sei il testimone chiave che però non è stato voluto ascoltare, questa è la sostanza del discorso, certo, in varie forme. Ma non solo il fatto che non mi vogliono, che non mi vogliono credere, beh, è vergognoso, ma non mi ho interrogato D'Ambrosio, cioè per non essere messo in imbarazzo dalla mia testimonianza, non mi avevano mai anche chiamato, non ho avuto neanche il coraggio di chiamarmi, interrogarmi e al limite dire no, non ci credo, no, se non lo chiamo faccio finta di niente, così non devo tenerne conto. Certo, perché era la cosa più semplice. Dopo molti anni, certo, citarmi all'incontrario. Altrimenti avrebbero dovuto accusarti, che ne so, di falso o cose, certo, del genere, certo, no? Certo, perché io qualcosa avrebbero dovuto fare. Certo. E adesso poi... con il malore attivo... Nel senso che nel momento in cui lei lo dice, io un quarto d'ora prima ho sentito dei rumori tipo rissa, e allora come funziona il malore attivo? Probabilmente avrebbe dovuto dire, se c'è stato un malore attivo poteva essere conseguenza del fatto che l'avessero pistato prima, e quindi ritorniamo punto e da capo. Anche per quello, indipendentemente dal problema della presenza di Calabresi in stanza, la testimonianza di Lello su come sono verosimilmente andate le cose è chiara. E su come D'Ambrosio, che ricordiamo è un attuale deputato del Partito Democratico, di senatore, senatore, come lo diventerà il dottor Caselli a breve, come lo è stato, come lo è Luciano Violante, quel partito, quella componente di magistrati che servono alla causa dello Stato, e che appunto fanno la verità politica, quella che Pinelli non è stato ammazzato ma si è suicidato, anzi si è sentito male perché è impresentabile la logica del suicidio, come appunto quella del poliziotto che diceva che ha tentato la fuga scavalcando la finestra dal quarto piano. Oppure ci sono dichiarazioni, Allegra che dichiara li abbiamo trattenuto per una scarpa, Palumbo, il giornalista dell'Unità che passa nel cortile, dice no guarda c'era tutti e due i piedi, la scarpa apparsa in quel momento misteriosamente risparisce subito dopo. Hanno dato almeno tre o quattro versioni i poliziotti di come è andata la storia di Pino. Nel processo contro Pio Baldelli, direttore responsabile di lotta continua, c'è la testimonianza di Panessa che è autocontraddittoria, è imbarazzantissima, che dimostra che era assolutamente inventata la versione poliziesca. Che non so se hai memoria di questa testimonianza, Lello, e vuoi raccontarla un po'. Ma guarda, intanto hai detto benissimo, però bisogna dire una cosa. Appena morto Pino, i poliziotti hanno dato una versione di questo tipo, sinteticamente. Si è suicidato perché si è scoperto che Valpreda è colpevole e in qualche modo che anche Pino c'aveva le mani in pasta. Questa è la versione che hanno dato i poliziotti subito dopo la morte di Pinelli. Con estrema arroganza, gli stessi poliziotti hanno cambiato la versione. Cioè, hanno dovuto dire dopo, no, Pinelli non c'entrava niente. Però nessuno ha rintracciato mai a loro nel dovuto modo. Ma signori, voi avete fatto delle dichiarazioni pubbliche appena morto Pinelli, adesso dite la cosa contraria? Cerchiamo di chiarirci. E Panessa è stata una specie di cosa tragicomica, cioè al processo cadeva costantemente in contraddizione, il giudice ha dovuto ammonirlo, guardi che io la incrimino. Ora, sappiamo come i magistrati siano, tra virgolette, gentili con i poliziotti, per portare un magistrato a dire, guardi che io la incrimino, se continua a contraddirsi in questo modo potete immaginarvi. Senti, l'ultima cosa, poi sì, passo la parola agli altri compagni, volevo chiederti, in tutti quegli anni dopo la tua prima deposizione hai mai subito, sì, pressioni di vario tipo per fartela cambiare, per cambiare? Ma, questa... guarda, sempre da commissario Finestra sono stato arrestato poco tempo dopo con l'accusa di aver tirato delle molotov contro la polizia, poi dopo due mesi, grazie all'intervento di un avvocato, non dei compagni ma di nome, che era amico di mia madre, si è visto che non mi aveva detto, non mi aveva visto nessuno, cioè ha scritto si è visto uguali tutti, però nessuno mi aveva visto, era generico. E quando venne il giudice istruttore in carcere di San Vittore, questo dopo 45 giorni che ero lì, molto in ritardo e con comodo, non mi chiede niente delle bottiglie Molotov, ma mi dice semplicemente ella deve smettere di dire che Calabredi è un assassino. Di chi era il giudice, tanto per la cronaca? Non me lo ricordo. Si potrebbe riferire, ma era il giudice istruttore di questa causa che è stata fatta contro di me, e dopo una manifestazione, dico, mi hanno fermato per quello, il giudice mi chiede perché diceva che la Calabresi era assassino, non mi fece una parola riguardo al fatto che mi era stato contestato. Se penso che questo sia abbastanza chiaro, no? Lello, sono Enrico, sì. Ti volevo chiedere una cosa. L'altro giorno, ti ricordi, ti ho fatto un interrogatorio da Questurino. Sì, non riesci mai a farlo da Questurino. Ecco, perché la tua testimonianza viene messa in dubbio, no? Allora, sì. C'è un altro particolare che rafforza la tua testimonianza, ed era il fatto dell'arrivo di Calabresi che ti racconta, quello che hai detto tu, che sì. Ti racconta della presenza dei Pinelli. Ma secondo la mappina che viene vista anche nel film, Calabresi doveva stare nella stanza di fronte, quindi non sapeva quello che era avvenuto. Certo. Poco attimi dopo del tonfo di Pino che cade, tu hai raccontato che cosa è successo, lo puoi ripetere? Io ho chiesto, lui è venuto lì e io ho chiesto, ma chi è arrivato prima? Prima sono arrivati due poliziotti, che non mi ricordo chi erano, immediatamente dopo Calabresi con un altro poliziotto che penso fosse il suo autista, però non sono sicuro, e gli ho chiesto, quelli poliziotti arrivati prima si sono messi davanti, ho cercato di non farmi vedere niente. Quando arriva Calabresi, però c'è questione di attimi veramente, gli chiedo ma cosa è successo, e lui mi dice stavamo parlando tranquillamente, non capisco perché lo ha fatto. Cioè mi dice esplicitamente, senza dirlo, perché non vedo perché dovesse dirmelo che era lì, dà per scontato che lui era nella stanza e stavano parlando tranquillamente. Mettiamo la cosa in negativo adesso, Lello. Se Calabresi era nella stanza di Allegra, come lui sosteneva, come cazzo faceva a sapere che Pino si era gettato? Come faceva a saperlo? Come faceva a sapere in quali circostanze si fosse gettato? Perché che si fosse gettato, al limite poteva averlo intuito, non lo so, qualcuno poteva averlo gridato, ma come faceva a sapere le circostanze? Stavamo parlando tranquillamente. E poi, perché non dire immediatamente guarda che io non c'ero? Scusa, che motivo avrebbe avuto di non giustificarsi tranquillamente? E non solo, io Calabresi ho avuto occasione di vederlo dopo due volte, mi sembra, in occasione di fermi, in occasione di manifestazioni. Non mi ha mai detto ma cosa cavolo dici, guarda che io non ero nella stanza, non mi ha mai detto niente, non ho mai avuto il coraggio di dirmi niente. E questa però può essere un'impressione mia, il fatto che lui mi abbia detto chiaramente stavamo interrogandolo. E ti ripeto, nel verbale di questo interrogatorio, che penso sia con Caizzi, che si può intracciare su internet facilmente, lo stesso Caizzi, penso, mi chiede ma ha parlato come se fosse nella stanza? Io ho risposto sì, ha parlato come se lui fosse presente. Più chiaro di così non so cosa si possa dire. Pronto? Sono Roberto, ciao. Ciao Lello. Roberto, bello. Senti, no, tanto per fare un puntino anche su quanto riguarda le sparizioni di testimonianze in questo processo. Una delle tante cose sparite era il mio alibi, quello te l'ho raccontato, ti ricordi? Il mio alibi per il 12 dicembre, io ero a Roma e stavo a Piazza Re di Roma a riparare la Vespa con un amico, e passò un elicottero della, che veniva da Vigna di Valle, diretto alla, al Ministero dell'Aeronautica. Passò sopra Piazza Re di Roma, fece tre giri sopra Piazza Re di Roma. Io per caso me ne accorsi, perché questo elicottero che continuava a girare, poi erano rari, insomma, all'epoca era il 69, sì. Ti ricordo. Sì, sì. Adesso gli elicotteri ne vediamo fin troppi, ogni volta che esce una manifestazione anche piccola ce ne girano almeno una decina. E ho visto sta cosa e l'ho riportata in atti, perché l'ho detta al giudice Occorzio quando venne. Certo, che era una cosa che confermava queste, che tu eri lì. Hanno fatto dei riscontri, erano partiti tre elicotteri da Vigna di Valle. Due un'ora prima e un'ora dopo il fatto, il terzo proprio esattamente quello che ho detto io, non solo confermato dal comandante dell'elicottero, fra l'altro era anche un pezzo grosso dell'aeronautica, che disse il motivo per cui aveva fatto tre giri, aveva preso un vuoto d'aria, è dovuto fare tre giri per riprendere quota. Addirittura? Sì, confermato, questa testimonianza addirittura di un alto ufficiale, è sparita. Ma fatto sparire. È sparita, non c'è più, capisci? Certo, c'è avuto rinvio a giudizio da parte di Cudillo, con tutto che negli atti di Occorzio ancora c'era quella testimonianza, è sparita. Nel rinvio a giudizio di Cudillo dice che io non ho alibi perché le uniche due testimonianze validate erano quelle dei due elicotteri, un'ora prima e un'ora dopo, quindi io non avevo alibi per questo motivo. Ma cose, non solo, cose dell'altro mondo, testimone, però... quell'amico mio che stava lì lavorando è stato messo sotto torchio, è stato addirittura minacciato, e questo lo so, ci so, poi basta vedere quante volte è stato interrogato, ci sono addirittura una decina di interrogatori di quel povero amico mio, insomma, che, immagino, che ha avuto la disgrazia di prestarmi una Vespa e che ho dovuto riparare. Mamma, quindi mia. Non ti racconto, queste sono tutte le cose, i corollari, piccole cose che poi ti danno la misura di quello che è stato, sì, all'epoca. Certo, danno la misura del clima. Quello il clima, che forse Roberto noi non spieghiamo bene ai compagni, che dovremmo spiegarglielo, è che tutto questo non inizia con la strada di Piazza Fontana, come tanta gente crede. Infatti, questa guerra agli anarchici, questo dare addosso agli anarchici, questo nascondere tutte le prove che possono scagionare gli anarchici, questo intimorire costantemente chi testimonia in favore degli anarchici, inizia molti mesi prima, quando parte... si cerca di accusare i compagni delle bombe ai treni, delle bombe alla fiera. Calabrevi è stato l'artefice principale, prima di Piazza Fontana, della caccia agli anarchici, e ha fatto fare ad anarchici, diciamo, poi assolti, molti mesi di carcere. Lei lo diciamo uno degli artefici, perché pure a Roma lavoravano abbastanza. Questo, certo, lui era uno, era uno dei principali, coordinava queste cose, che guarda, che lui coordinava queste cose. Poi anche dopo la strage, anche dopo la morte di Pino, lui ha continuato a scavare per cercare di trovare qualcosa contro Pino, non dimentichiamoci di questo. Come no, ma scherzi, ma cioè, basta ricordare che destra, Lello, tutto è, tranne che un santo, è un poliziotto, ma che basta... ha fatto il suo lavoro sporco, come lo facevano tutti in quei tempi, non si è mai tirato indietro. Certo. Anzi, anche dopo la morte continuava a rompere le palle. E infatti. Prima e dopo. Tanto per fare un po' di storia dell'epoca, Lello, insomma, è fondamentale. Un po' per i compagni che stanno, la gente che sta ascoltando, nel 69 ci furono 160 attentati circa in Italia. Certo. La maggior parte, diciamo il 99%, fatti dalla destra, riconosciuti dopo anni che erano stati fatti dalla destra. Certo, poco alla volta erano riconosciuti tutti di destra, Roberto, però calma. Tutti quanti al 90% all'epoca addossati agli anarchici, alla sinistra e ai movimenti. Addossati. Capisci? E adesso, quindi, adesso non contenti di averci accusato in quegli anni là, oggi stanno tentando di ritirarci dentro, perché lasciarli tutta la destra non piace a qualcuno, evidentemente, no? Certo. Cioè, allora, da un lato... si cerca di santificare Calabresi per evitare che noi abbiamo qualcuno con cui prendersela, e dall'altro si cerca di ritirarsi dentro, perché ormai stanno cercando di tirare dentro tutto in tutto. Beh, quando arrivano a dire che, insomma, anche i repubblichini poveretti e i partigiani cattivi, si fa la stessa operazione. certo, ma il i buoni e i cattivi sono dappertutto, in fondo sono tutti la stessa cosa, si vuole stravolgere la verità storica. Infatti. E noi siamo capitati dentro in questa cosa qua adesso, già ce l'avamo capitati prima. Beh, il motivo è chiaro, Lello, perché attualmente, come vedi, parlo della Notav, parlo di tutte le realtà che ci sono in atto in tutta Italia, insomma, da parte dei compagni anarchici, sì. E vengono additati in tutti, vengono messi sotto torchio ancora di nuovo oggi per questi motivi, perché sono le uniche realtà che hanno qualche valenza attualmente, perché nel certo. lo dicevamo all'inizio, Lello, appunto, che in questo periodo, non a caso escono in questo periodo il film, perché tenta in questo periodo di crisi e di ripresa dei movimenti, assolutamente, ha lo stesso scopo che ha avuto allora, quindi il meccanismo sì. È quello. Bene, Lello, noi ti ringraziamo, c'è stata preziosa la tua testimonianza. No, poi io sono io che ringrazio voi, è sempre un piacere continueremo ancora. E vabbè, poi ci risentiremo come di consueto ogni 12 dicembre, perché no, voi sapete che ci saranno per cercare di mettere a fuoco tutta la questione. Parlatele con Roberto e Enrico, vi diranno, ci verrete anche voi, eh? Certo. Ci sarà modo di fare tutte le domande possibili, di sviscerare il problema con calma, perché intendiamo rispondere in modo organico e tranquillo, non correre dietro a ogni provocazione che non vale la pena. Senti, ti ringrazio ancora. Grazie a te, Lello. Ciao. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Preciso quello che stava dicendo Lello, cioè è in programma, e lo faremo, lo realizzeremo nei prossimi mesi, un incontro, un convegno, un seminario che vedrà la presenza di tutti i compagni protagonisti di queste operazioni repressive, partendo, l'ha citato, lo ricordiamo, da quelle dalle bombe del 25 aprile in Italia, prima di Piazza Fontana. Il 25 aprile ci furono una serie di attentati fascisti, è stato dimostrato, sono stati trovati gli autori materiali, per cui vennero arrestati e tenuti in galera per anni degli anarchici. Pino Pinelli divenne relativamente famoso negli ambienti politici milanesi e perciò perseguitato da calabresi che aveva arrestato i compagni, perché lui si occupava della Croce Nera Anarchica, cioè della struttura di supporto e solidarietà ai detenuti anarchici rinchiusi per quelle bombe. Per questo motivo calabresi perseguitava Pino, per questo motivo gli dava la caccia, per questo motivo lo seguiva. Non c'era nessun tipo di rapporto amicale, non diverso un rapporto, se uno non pensa che tra un persecutore e il perseguitato ci possa essere un rapporto amicale, voglio dire, evidentemente è quello. Sulla testimonianza che rende Pino rispetto alla storia, c'è da dire che anche lì Giordana e il film fanno una mistificazione, per tornare a quello che diciamo, cioè Calabresi, che ha dichiarato di stare nella stanza di Allegra eccetera, lo sposta in un'altra stanza dove nessuno aveva mai detto che c'era la stanza Telex, poi che cosa... Manco lui l'aveva detto, cioè sono i meccanismi di santificazione, perché adesso deve trovare la persona da santificare in nome dell'unità nazionale. C'è Moro che ricordava, come ricordava prima Salvatore, che ha fatto fa la legge reale, che ha fatto che lì diventa una specie di santo laico che garantisce la democrazia in Italia. Così come Calabresi diventa il commissario buono, quello che cerca in tutti i modi di cercare il colpevole. No, lì quelli erano persone e personaggi che, indipendentemente dalla santificazione che se ne fa oggi, sono stati tra gli elementi e gli artefici di una strategia che oggi si ripropone, che era la strategia della tensione, la teoria degli opposti estremismi, che serviva semplicemente a legittimare una sorta di autoritarismo interno in Italia. E una chiosa, non ne abbiamo parlato, non ci riguarda direttamente, ma nel film c'è anche una rivalutazione di Junio Valerio Borghese. Sembra quasi che la persona che poco dopo proverà a fare un colpo di Stato in Italia, già pensava di mandare al muro, sul modello greco e spagnolo, all'epoca in Spagna c'era ancora Franco, qualsiasi forma di oppositore, lì è scandalizzato perché ci sono stati dei morti. Quando poi in tutte le altre inchieste successive risulta che il gruppo di fascisti che a lui faceva riferimento erano tra le persone che questi attentati, anche mortali, anche stragisti, facevano e attuavano. Cioè, il problema di tutta questa operazione è quella che denunciamo e che denunceremo con forza, e sappiamo di trovare nella radio un megafono per quanto andiamo dicendo, anche con questo convegno appunto che è in preparazione, e è che stanno cercando di riscrivere la storia ad uso della repressione e della riproposizione oggi degli opposti estremismi. Cioè, il problema qual è? Il fatto di mettere le due bombe a Piazza Fontana: una la mettono gli anarchici, un'altra la mettono i fascisti. I fascisti sono un po' più cattivi, però chiunque si pone al di fuori dell'ordine costituito, del seminario, del seminato, di quello che oggi c'è al governo. Oggi al governo abbiamo un governo simile a quello che c'era negli anni 70, col Partito Comunista al governo all'epoca a fare la politica dei sacrifici. Oggi abbiamo tutti i partiti, la maggior parte, una maggioranza così ampia non si è mai vista, non esiste un'opposizione in Italia, e serve a far passare un massacro sociale di dimensioni non si sono mai viste. Ci sono i suicidi per motivi economici in Italia. Suicidi ce ne possono stare per un miliardo di motivi, farli per motivi economici, una pensionata si è ammazzata perché gli hanno ridotto la pensione da 800 a 600 euro al mese, questi sono cadaveri che pesano sulla coscienza di Monti, di Bersani, di Alfano, di Berlusconi, di Casini, cioè di quelli che oggi sono al governo. Di queste cose, e per questo motivo oggi c'è la riproposizione dell'anarchico cattivo. Sì, io volevo, ce l'ho, sì. Allora, una piccola cosa, infatti, sulla figura di Borghese, come di Junio Valerio Borghese, come viene dipinta nel film, cioè non è solo quello del mancato colpo di Stato, era un collaborazionista con i nazisti, un rastrellatore di partigiani e di civili, quindi questa cosa assolutamente gratuita che nel film lo fa diventare una specie di personaggio nobile, no? Di idealista della guerra. Sì, che litiga con delle chiaie, gli dice: ma che avete combinato, avete ammazzato i civili. Delle chiaie risponde: ma la guerra, ma che guerra, insomma una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra. Ma tutti i discorsi che abbiamo fatto, no, fino adesso, grazie anche alla testimonianza del compagno Valitutti, sono utili anche a demistificare un altro aspetto fondamentale che corre per tutto il film e poi nel finale, diciamo, è proprio dichiarato apertamente, cioè che c'era al massimo un corpo separato, ma manco tanto corpo, separato sicuramente all'interno dello Stato, qualcuno che inciuciava coi fascisti, ma un'altra parte dello Stato, impersonata da Moro, figuriamoci un po', che già pure lui predestinato, no? Che poi in questa comunanza con Calabresi, perché Moro ovviamente poi verrà assassinato molti anni più tardi, e quindi in realtà poi c'era come una faida interna, una lotta interna, ma poi la Democrazia Cristiana impersonata da Moro, poi questa cosa comunque la guardava con orrore. Non è vero niente, perché tutte le testimonianze ci sono state, sono quelle su una conduzione poi della vicenda giudiziaria politica, perché ovviamente le cose sono fortemente intrecciate, che invece mira a sostanziare nel senso di cercare di dare sostanza, che non c'era, a valorare la tesi appunto della pista anarchica, che come ricordavamo all'inizio è quella poi detta proprio a bomba ancora calda dal questore di Milano, che fra l'altro era quello che stava a Ventotene, quindi che nel film dice: ce l'hanno con me perché stava a Ventotene. Te pare niente? Ventotene era il luogo di confino ai tempi del fascismo, cioè ci avrò pure motivi per avercela con te. Stai in fascista, eri un fascista e fascista sei rimasto. Insomma, questo è importante dirlo, perché se lo slogan fondamentale, che non è uno slogan ma è la verità gridata nelle piazze, io direi quasi da subito dal movimento, era che la strage è di Stato, tutta questa vicenda giudiziaria diciamo lo conferma, tutte le cose che ci ha detto anche il compagno Valitutti lo confermano ampiamente. Ricordiamo anche Moro per quello che è stato, pochi anni dopo è il ratificatore della legge reale qui in Italia, ecco, insomma. No, forse va ricordato che nel 69 la maggior parte della magistratura e la maggior parte dei questori, dei prefetti, venivano tutti dal fascismo. Quindi questo era il quadro in cui ci trovavamo. Io volevo fare una parentesina didattica, perché poco fa c'è stata una telefonata di un ascoltatore che chiedeva dove si poteva trovare il libro La strage di Stato, dice, perché tra l'altro dice io non ne avevo mai sentito parlare, e questo dà un po' la misura di quante cose ancora ci sono da dire, da informare, insomma da trasmettere, e tra l'altro a me non sembrava un ragazzo, insomma, una persona molto giovane. Quindi c'è sicuramente questo buco, no, nell'informazione, e è evidente che di fronte a strumenti di comunicazione come può essere un film è difficile risalire la china, cioè bisogna fare degli sforzi, insomma non dare mai niente per scontato, anche noi magari che facciamo, facciamo questo tipo di trasmissioni, dobbiamo sempre pensare che non solo i giovani sanno pochissimo di quello, della storia recente di questo paese, di quell'episodio in particolare, di quel periodo, ma anche magari persone che non hanno avuto modo per diversi motivi di avvicinarsi, di interessarsi eccetera, restano sconcertate, da magari vanno a vedere il film che gli presenta una certa verità, una certa spiegazione, poi sentono che a malapena, e per fortuna sentono Onda Rossa, insomma, e scoprono che ci potrebbe essere un'altra strada per approfondire i fatti, insomma. Allora io dico, il libro si chiama La strage di Stato, è stato ristampato recentemente da Odradek e si trova, penso, nelle librerie, magari non in tutte le librerie, però sicuramente all'uscita, alla libreria uscita che sta... La ex uscita, sì, la stessa a Via dei Banchi Vecchi si trova, e poi comunque si può scaricare da internet. C'è anche il sito curato appunto dai compagni dell'ex gruppo 22 marzo, il sito stragedistato.wordpress.com, che raccoglie documenti e testimonianze dell'epoca per organizzare meglio la campagna di memoria e rivendicazione di quanto accaduto. È stata costituita un'associazione, Gli Anarchici per la Verità sulle Stragi, che vede protagonisti e partecipi tutti i compagni che all'epoca hanno subito le conseguenze della repressione statale, e se con accuse infamanti di strage, pur essendo completamente innocenti. Sarà appunto con l'associazione che si cercherà di realizzare questo convegno di cui parlavamo prima. Per ora, come riferimento immediato, c'è il sito, ripeto, www.stragedistato, stragedistato.wordpress.com. Perché in ultimo, insomma, diciamolo, perché si chiama, da tutte le cose che ci siamo detti qui, ovvero le molte altre che non siamo riusciti a dire, perché poi il tempo è quello che è, gli episodi, la materia è vastissima. Perché si chiamò La strage di Stato? E perché insomma non fu detta questa è una strage fascista? No, non fu detto che è una strage, fu detta che è una strage di Stato. Dico questo. C'ha un significato particolare proprio perché tutti quegli anni, tutto quel periodo, l'opera di contrasto che si faceva, che prima veniva ricordata, all'avanzata delle rivendicazioni sociali, l'avanzata del movimento operaio, del movimento studentesco, a partire dal 1960, aveva visto insieme che cosa? Gli organi principali dello Stato, non solo permeati, come ricordava adesso Roberto e anche Enrico, da vecchi strumenti fascisti, perché dopo la guerra non c'era stata quell'epurazione che si era detto e non c'era stato un ricambio, insomma, tanta magistratura, tanta polizia erano le stesse persone che avevano gestito gli ultimi anni del fascismo, insomma, venivano da quella scuola là, da quell'atteggiamento, anche dall'Ovra. Federico Umberto D'Amato veniva dall'Ovra, insomma, no? Poi passato i servizi segreti e così via. Nel 60 questo prende addirittura corpo, perché vengono cooptati i propri fascisti col governo Tambroni nel 1960, e ci sono i morti per le strade d'Italia, e parecchi morti perché c'è una sollevazione popolare, e da quel momento in poi, 1962 a Torino Piazza Statuto, da quel momento in poi l'avanzata che segue, che va sempre più rinforzandosi da parte delle rivendicazioni sociali degli strati, dei lavoratori, degli studenti e di tutti quanti, si tenta sempre di contrastarla con questi strumenti. Nel 1964 c'è il tentativo di colpo di Stato fatto da De Lorenzo, e non va dimenticato, anche lì insomma, no, consegni Presidente della Repubblica, si cerca di contrastare questo, non basta quello, è ancora avanti. E allora ecco qui di nuovo l'utilizzo dei fascisti in funzione diciamo di manovalanza, ma comunque con una funzione politica di questo tipo, fino appunto agli anni del 68-69, dove proprio l'esplosione massima delle rivendicazioni in tutti i sensi, e si arriva appunto all'episodio della strage. Quindi lo Stato in quanto tale, in tutte le sue articolazioni, e non solamente i fascisti, e non solamente l'atto d'accusa verso la destra eversiva, bombarola, eccetera eccetera, insomma, no, ma è proprio il messaggio politico che si voglia dare, e credo valido ancora oggi, fu questo. E forse, questa è almeno una mia opinione, il tentativo anche di questo film, ma non solo, del libro di Cucchiarelli eccetera, è quello di sollevare viceversa lo Stato da questa immagine di stragismo, perlomeno di noncuranza, di non attenzione, ma viceversa noi diciamo di partecipazione attiva allo stragismo come politica non solo repressiva ma proprio di freno, insomma, per mantenere l'ordine costituito. E quindi se lo vogliono scrollare addosso non gli sta bene, c'è ancora gente che, anzi c'è ancora, ce n'è tanta di gente che vuole sollevare lo Stato da questa immagine che gli è rimasta, questo marchio non è stato più cancellato, perché tutti gli anni dopo, vi ricordate, tutti gli anni 70 ancora era il marchio della strage di Stato, era quello che stava in tutte le rivendicazioni e in tutte le lotte. I partiti non erano credibili perché tutti avevano con le differenze, con il PC al solito che faceva la scimmia che non vede e tre scimmiette che non sentono, non vedono e non parlano, ma sicuramente la Democrazia Cristiana, il Partito Socialdemocratico, tutto quello che era il coacervo, Saragat era Presidente della Repubblica, era socialdemocratico, erano marchiati da questa infamia della strage di Stato. E questo oggi si tenta in qualche modo di sollevarlo, di cancellarlo, ricostruendo una verità che, come insomma voi stessi principalmente avete detto, è tutta inventata, insomma. Bene, vogliamo concludere, perché sono le 13, e io concluderei con la ballata dei Pinelli, che mi pare, che tra l'altro quella canzone dice molte verità, più di quante i libri poi in una canzone, insomma, mette in chiaro alcuni passaggi. Intanto ringraziamo voi, teneteci al corrente di questa iniziativa a cui parteciperemo volentieri, e niente, buon lavoro, continuate così e continuiamo così, perché vediamo se rimettiamo sulla retta via almeno la memoria storica che serve per l'oggi. Grazie per l'ospitalità e a presto. Ok, ciao a tutti. Questa ciao, è la ballata dei Pinelli. Quella sera era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiera aprì un po' la finestra e ad un tratto Pinelli cascò. Commissario, io gliel'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuole dir bombe, ma eguaglianza nella libertà. Poche storie indiziato Pinelli, il tuo amico Valfreda ha parlato, lui è l'autore di questo attentato e il suo socio sappiamo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, tra i padroni bisogna cercare chi le bombe ha fatto scoppiare. Altre bombe verranno gettate per frenare la lotta di classe.